come detto prima, proviamo a collegarci con un compagno per parlare un po' della situazione di piazza che c'è stata sabato a Milano in piazza Oberdan, e ci descriverà un po' la giornata com'è andata. Ciao, ci senti? Ciao, sì. Ciao, ciao, grazie e benvenuto a Radio Tagadà. Allora, niente, come dicevamo, volevamo capire un po' la situazione che ha portato alla volontà di scendere in piazza sabato scorso. Ma, dunque, immediatamente dopo il naufragio, diciamo che appunto le organizzazioni che sono la cosiddetta Civil Fleet, la flotta civile, cioè quel coordinamento tra le ONG, le associazioni, le organizzazioni che sono operative nel Mar Mediterraneo, con gli attivisti locali, in particolare Mediterraneo Saving Humans, che ha un equipaggio di terra di Milano, ma anche le altre, hanno cominciato a promuovere diciamo delle manifestazioni insieme anche ai collettivi antirazzisti locali in vari luoghi d'Italia. Lo abbiamo fatto anche a Milano sabato, c'erano migliaia di persone, e adesso ci si sta organizzando. Mediterranea Saving Humans sta organizzando pullman da tutta Italia per andare a Crotone, anzi per la precisione a Steccato di Cutro, dove appunto ci sarà una grande manifestazione organizzata innanzitutto dalla rete 26 febbraio, rete solidale antirazzista del territorio, ma poi appunto con la solidarietà e il sostegno di tante realtà da tutta Italia e tante persone che si stanno organizzando in modo anche periglioso per raggiungere Steccato di Cutro. È quello che questo naufragio, che noi appunto chiamiamo strage, ha messo in luce, è una volta di più come le politiche diciamo di respingimento ai confini d'Europa siano mortifere. È chiaro, in questo rimbalzo di responsabilità tra Frontex e lo Stato italiano sono chiare le responsabilità del Ministero dell'Interno, che evidentemente ha preferito un'operazione di polizia con la Guardia di Finanza a un'operazione di salvataggio con la Guardia Costiera, però è anche chiaro che questo è lo spirito di Frontex, che appunto e delle missioni che hanno sostituito Sophia e le precedenti missioni che per alcuni anni erano state messe in campo dall'Unione Europea e orientate al search and rescue. Certo, servirebbe ben altro, ma almeno nel Mar Mediterraneo rappresentavano qualcosa di meglio di questa politica che punta a minimizzare gli arrivi anche a costo di massimizzare le morti, senza peraltro sigillare nessuna frontiera, perché anche come dire, con uno sguardo no border, che quindi non ha nessun timore di vedere arrivare troppe persone nel nostro paese, ma i fatti oggettivi sono che il tempo del nuovo governo Meloni è un tempo di nuovo aumento molto significativo dell'arrivo, e questo non dipende dalle politiche locali ma da quello che succede dall'altra parte del mare. Poi, se volete, ne parliamo. Sì, sì, molto interessante quello che ci dicevi. Come vuoi, se vuoi parlarci di questa roba qui, oppure noi magari volevamo chiederti un po' di più, diciamo, com'è andata l'iniziativa di sabato, più o meno quanta gente c'era, se poi il presidio si è trasformato in una camminata o è rimasto statico. Vogliamo sapere un po' questa roba qui. Ma sì, possiamo fare un po' entrambe le cose, perché cioè parlare della manifestazione e anche del Mediterraneo, perché il presidio, cioè o meglio la mobilitazione convocata in piazza Oberdan, ha visto la partecipazione di migliaia e migliaia di persone. Poi io personalmente, ma abbiamo anche condiviso la scelta di non fare la lotteria, diciamo, eravamo migliaia, siamo arrivati in stazione centrale, non ho idea di cosa abbia comunicato la questura, comunque poi ci sarà chi è arrivato, è stato fino alla fine, comunque c'erano migliaia di persone in un corteo molto lungo che a un certo punto si snodava appunto da centrale quasi fino a Oberdan, insomma. E c'è stata una partecipazione. Abbiamo cominciato con un lungo momento di interventi a Piazza Ferma per comunicare, come dire, anche perché l'emozione e le cose da comunicare dopo ciò che era successo erano tante, e lì sono intervenuti anche, oltre alle organizzazioni impegnate come Mediterranea nel soccorso in mare, sono intervenute, e questo forse è stata una cosa tra le più interessanti della manifestazione, la comunità curda, Majd Karbaj, che è un esule tunisino, e alcune persone subsahariane hanno mandato dei messaggi. Insomma, abbiamo cercato appunto di dare voce a quello che succede dall'altra parte, perché si parla pochissimo in Italia, per esempio, di quello che succede in Tunisia. Tra l'altro, sabato alle 11 ci sarà un presidio organizzato, mentre a Cutro si svolge la manifestazione nazionale, a Milano ci sarà un presidio organizzato da alcune associazioni tunisine per appunto denunciare che dentro la svolta autoritaria che da più di un anno caratterizza quel paese, adesso nell'ultimo mese, per cercare consenso, il presidente, diciamo, ha avviato una campagna di propaganda razzista, che è una cosa che fa col pieno accordo dell'Unione Europea, anzi in un certo senso su mandato dell'Unione Europea, che invita questi paesi a non essere più luogo di transito. Ora, in realtà il primo risultato è che sono aumentate a fronte di questi pogrom contro sostanzialmente le persone nere in un paese che appunto è africano, ma è prevalentemente arabo, o comunque non dove i subsahariani sono indicati, additati come le persone subsahariane sono additate come una minoranza da stigmatizzare in questo momento dallo stesso governo. Il primo risultato è stato l'aumento delle persone che fuggono. Oggi 1.000 sono arrivate nella notte a Lampedusa in una sola notte. Ma ovviamente la politica di medio-lungo termine è l'idea di ristabilire quello che c'era prima delle primavere arabe, cioè dei governi affidabili dal punto di vista dell'Unione Europea, perché pronti a usare qualunque mezzo per fermare le migrazioni. Inutile, anzi utile, ma forse più noto, ribadire ciò che accade in Libia, dove il nostro governo finanzia la cosiddetta Guardia Costiera. Ogni 6 mesi si rinnova un accordo che prevede sostanzialmente il finanziamento di queste milizie che controllano i lager in cui sono detenute le persone che cercano, che appunto che considerano la Libia come luogo di transito. Più di un anno fa una protesta con migliaia e migliaia di persone ha per 3 mesi tenuto la piazza di fronte all'UNHCR di Tripoli, per poi essere sgomberata in armi, ovviamente. Questa esperienza si vede su Refugees in Libia, su online, chiunque la volesse approfondire, e abbiamo anche ascoltato il grido di dolore del popolo curdo, che appunto insieme ad altri popoli si trova in quella faglia, in quel posto del mondo in cui un terremoto veramente di dimensioni epocali ha spazzato via interi villaggi, intere città, e che adesso si trova ad essere, invece che al centro di una grande solidarietà internazionale, al centro delle ambizioni geopolitiche di Erdogan e Assad, che giocano i loro rispettivi alleati o vengono giocati dai loro rispettivi alleati, diciamo interessati alla geopolitica mondiale, per far arrivare o non far arrivare aiuti in un posto o in un altro. Questo è il contesto, da cui partono le migrazioni. Sì, infatti, mi hai proprio tolto le parole di bocca, hai descritto benissimo tutta una situazione che è al di fuori, insomma, dei confini italiani, che porta la gente appunto ad andare via, non per cercare un lavoro, per stare meglio, ma veramente per evitare di morire nei propri paesi a causa, insomma, di guerre, interessi geopolitici che hai citato anche tu, in Kurdistan, piuttosto che i pogrom che ci sono nei paesi, diciamo, se così possiamo dirli, subsahariani o comunque della fascia nord atlantica nei confronti di altre persone, insomma, dell'Africa meridionale che provano appunto a venire verso il miraggio Europa. Bene, noi ti ringraziamo e in chiusura ti volevamo solo chiedere di rilanciare, insomma, l'appuntamento alla prossima mobilitazione che ci aggiornavi, che ci accennavi già prima. Benissimo, un appello acuto, dici? Sì. Sì, certo, chiunque possa. Allora, noi in Mediterraneo stiamo organizzando dei pullman, devo dire siamo in lista d'attesa, cioè nel senso in questo momento non ci sono posti, ma comunque provate a contattarci se volete. In ogni caso alle 2 sulla spiaggia di Cutro ci sarà una manifestazione, una mobilitazione, anche in quel caso un momento di commemorazione. Insomma, invitiamo tutti quelli che possono a raggiungere e tutti quelli che non possono raggiungerlo comunque a seguire, perché insomma pensiamo che dopo queste 2 settimane di voci che se non altro si sono alzate molto dalla Calabria, e vanno molto ringraziate le persone che si sono attivate là, ma insomma non solo. Sia importante continuare a farlo perché alcune politiche cambino. E su questo voglio dire, bisogna anche riconoscere che dentro a una situazione vergognosa e molto complessa, le lotte nelle varie forme che assumono hanno una funzione, perché quello che fa la Civil Fleet nel 2018, qualcuno voleva sradicare le navi del soccorso civile del Mediterraneo. Oggi invece esiste un esperimento piuttosto unico di alleanza tra soggetti molto diversi tra loro che agiscono spesso. Come dire, a partire magari alcuni, a partire tutti, soprattutto da un'istanza umanitaria, ma agiscono in modo attraverso delle precise rivendicazioni e cambiano il contesto, perché non sono tanto il 10%, che comunque sono vite umane, quindi preziosissime, di persone che vengono salvate in mare dalle organizzazioni non governative, ma è più che altro quello che succederebbe se non ci fosse questa voce in mezzo al mare. Rispetto alle politiche europee, che conta e dice di quanto le lotte, chiamando in questo modo sia l'impegno a essere in mare, sia tutte le mobilitazioni antirazziste a sostegno di questa azione, ma anche ciò che hanno fatto in Calabria, per esempio a Riace, anche se sempre sotto attacco, hanno cambiato la realtà. Come dire, perché la storia non si ferma mai, ecco, diciamo, in un senso o nell'altro. Perfetto, dai, noi ti ringraziamo e speriamo di, insomma, aggiornarci per altri momenti di mobilitazione di piazza, sperando di non raccontare sempre, insomma, di tragedie e appunto di morti in mare e non solo. Grazie mille e a presto. A voi, a voi, a presto.